Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera facciamo un viaggio in Cina e lo facciamo con Francesco De Filippo. Buonasera De Filippo. Buonasera ai radioascoltatori. Francesco De Filippo, giornalista dell'agenzia ANSA, è stato corrispondente per il Sole 24 Ore, ha scritto vari libri per vari editori, soprattutto romanzi, e adesso con questo libro ha deciso di fare un piccolo saggio, un saggio sulla Cina, Il dragone rampante, 182 voci del potere cinese. Perché la Cina, De Filippo? Perché la Cina? Perché da osservatore, quale sono, non da sinologo, da osservatore noto che il grande miracolo, la grande strategia che sta compiendo la Cina in questi anni nella trasformazione o comunque nella complementarietà tra un regime autoritario comunista e un'economia quasi di mercato, comunque diretta verso il capitalismo, trovo che sia forse tra gli esperimenti socio-economici più importanti degli ultimi decenni. Ecco, una Cina che è molto presente sul fronte occidentale, sul fronte italiano, negli anni scorsi è stata presente con le sue merci, con le sue produzioni, che hanno spiazzato molte produzioni interne, ma negli ultimi tempi è presente anche con i suoi capitali, con l'acquisizione di grandi società italiane, da società che producono pneumatici a società che producono divertimento come il calcio. Allora siamo di fronte a una Cina che sta diventando una Cina anche un po' imperialista dal punto di vista economico? Può essere. Io credo che l'obiettivo di Pechino sia sicuramente quello di diventare oggi è un leader consacrato, domani vorrebbe, credo, diventare il leader unico. L'epico, il quasi leggendario progetto della Via della Seta, che avvolge l'intero pianeta partendo da Pechino, avviluppando in una serie di reti ferroviarie e marittime tra infrastrutture, porti e quant'altro, è un obiettivo ambiziosissimo che mi sembra risponda proprio a quest'idea, cioè quella di essere l'unico leader internazionale. In Italia hanno fatto acquisizioni nell'ultimo anno, mi sembra qualcosa come 10 miliardi di euro, sono più di 300, mi sembra 335 le società o comunque grandi aziende passate nelle mani dei cinesi, e questo solamente in Italia. Poi ci sono acquisizioni fatte dovunque, negli Stati Uniti, mi viene in mente ad esempio l'entertainment, la Legendary Entertainment, no? Che hanno acquistato per 3 miliardi e mezzo di dollari, e sarebbero gli studios dove hanno prodotto Batman, tutta la serie di Jurassic, no? Che sono al di là del valore squisitamente finanziario e economico, poi hanno anche un valore culturale, no? Ecco, ma dietro a queste mosse c'è un progetto, c'è un'idea, c'è una volontà comune, oppure sono realtà che, come dovrebbe avvenire nell'economia di mercato, nascono da possibilità, da opportunità che le diverse aziende, ancorché controllate magari in parte dallo Stato in Cina, però si trovano di fronte? Cioè c'è una volontà strategica del paese di conquistare un po' anche l'ambito economico, oppure tutto nasce da questa dinamica di mercato? Ma io non credo che sia soltanto una dinamica di mercato. In un paese come la Cina, dove tutto è fortemente controllato, dove Pechino sa tutto ciò che accade nell'immenso impero cinese, io non credo che sia casuale che ci siano 4-5 grandi, enormi colossi, peraltro di solito gestiti da ex ministri o comunque ex personaggi politici o comunque legati anche ad apparati di sicurezza dell'intelligence cinese. Credo che questo risponda a una strategia per cui tutto ciò fa capo alle leve del potere cinese. La stessa cosa riflettevo forse anche per l'emigrazione cinese, no? Un paese dove tutto è sotto stretto controllo, è difficile che possa avere delle falle nella fase emigratoria, per cui partono decine di migliaia di cinesi e Pechino non se ne accorge, insomma. Quando si tratta di Islam, noi chiamiamo cellule in sonno, immaginandole come cellule di guerra, cellule militari, Io vedo una cosa analoga, ma non per niente militare, ma assolutamente economica, le vedo invece da parte delle autorità cinesi, no? Ecco, ma in questo libro ci sono degli esempi molto interessanti. Ecco, ricordo che questo libro è in fondo un vocabolario, 182 voci che illustrano un po' la realtà cinese, ma anche e soprattutto in confronto con la realtà italiana. Tra queste voci c'è anche la voce Italia, c'è la voce Fiat, c'è la voce Edilizia, c'è la voce Enel, perché sono tutte implicazioni in tutte aziende, tutte realtà in cui appunto la Cina è implicata. E c'è una interessante osservazione riguardo all'olio, con il passaggio di quota di maggioranza del gruppo toscano dalla famiglia Fontana, che è proprietaria degli oli Saga e Berio, e rilevarla il gruppo Yimin, che la motivazione è che intende favorire l'uso di uno stile di alimentazione sano come la dieta mediterranea in Cina, mantenendo l'identità e la tradizione italiana. Quindi potremmo dire tutte le più buone intenzioni. Ma sicuramente ci sono anche buone intenzioni. Adesso proprio in materia alimentare è passata una legge, il Parlamento cinese ha approvato una legge che si occupa proprio delle alterazioni alimentari, una cosa che è innovatrice sul mercato e nell'ordinamento cinese, perché ci sono stati tantissimi scandali che possono essere paragonati un po' a quelli dell'etanolo in Italia di tanti anni fa, no? Sì. Allora è accaduto con il latte sì, per bambini, soprattutto ci sono state molte vittime, e quindi le autorità sono passate alle vie di fatto, insomma, hanno preso dei provvedimenti, e questo è un po' il significato, un po' l'indice di una società in trasformazione che non pensa più soltanto a produrre, ma che comincia a pensare anche al benessere dei propri cittadini. Ecco, questo appunto anche guardando un po' intrecciare appunto questa rete di rapporti che favoriscono anche l'integrazione della Cina con il resto del mondo. Ma la domanda che ci si può porre allora è quella: ma potrà sopravvivere a lungo un'economia di mercato che per sua natura è un'economia libera con un regime autoritario che per sua natura è un regime non libero, un regime appunto in cui la libertà di espressione, la libertà stessa di movimento è molto limitata, controllata e guidata appunto dalle autorità, sì. Potrà sopravvivere a lungo in Cina? Ma io credo che dei profondissimi cambiamenti dovranno necessariamente arrivare, si manifesteranno. Sarà, fino ad oggi ci sono state delle grandi aziende dove la spinta, diciamo, capitalistica, la spinta privatistica non poteva superare il 49%, un pacchetto azionario, certo. 49%, e il 51% invece era nelle mani dello Stato. È ovvio che si tratta di maglie troppo strette per favorire, perché i capitalisti, poi i privati, non insistano per ottenere maggiori libertà. D'altronde lo status di economia di mercato è uno degli argomenti principe di questi mesi, e proprio dalle colonne del Sole 24 Ore se ne parla, perché fino a quando l'influenza dello Stato continuerà ad essere così forte, ovviamente sarà un mercato alterato, non potrà essere definito realmente un'economia di mercato. Basta guardare il surplus che hanno di prodotti della siderurgia, ci si rende conto che non si può definire un'economia di mercato. Loro continuano a produrre prodotti siderurgici, dell'acciaio, ghisa e quant'altro, soltanto perché lo Stato finanzia queste imprese e consente in questo modo di evitare centinaia di migliaia di licenziamenti. Ma ovviamente è una presenza dello Stato troppo ingombrante, troppo non episodica. Ecco. Quindi, anche perché manca completamente il principio di reciprocità, mentre un'azienda cinese può acquistare una squadra di calcio italiana, penso che non sia possibile per una società italiana entrare con pacchetti di maggioranza assoluta in società cinesi, anche in campo sportivo. Quindi il principio di reciprocità è un principio fondamentale nella realtà economica, nella realtà degli scambi liberi. Certo, assolutamente, altrimenti sarebbe troppo facile e troppo comodo per loro. No, assolutamente. Io credo che la Cina in qualche modo dovrà fare i conti con questo. Per il momento io vedo che è impegnata in questa seconda fase, cioè da grande produttore a buon mercato adesso sta diventando un paese diverso, un paese che insiste molto nella ricerca, ad esempio destinano ogni anno più o meno 327 miliardi di euro in scuole e università, si stanno specializzando in aziende ad altissimo contenuto tecnologico, quindi sta cambiando il paese, e così come cambierà dal punto di vista economico, così dovrà esserlo anche da un punto di vista sociale, ambientale, previdenziale per i lavoratori. Ovvio, fino a ieri un lavoratore cinese guadagnava $100 e poteva essere licenziato in qualunque momento e lavorare anche sabato e domenica ed era felice. Tra 5 anni questa cosa non sarà più possibile, è ovvio. Ecco, un'ultima domanda, Francesco De Filippo. Tra le voci dell'ultima parte del libro c'è quella Vaticano. Ricordi appunto un messaggio di Papa Francesco al popolo cinese all'inizio dell'anno. Vedremo mai un Papa in Cina? È una domanda difficilissima, non lo escludo, però non lo escludo. Cioè, non lo vedremo, probabilmente qualcuno lo vedrà. Il problema è se lo vedremo noi nei prossimi anni, in un'evoluzione anche di quella che è in fondo la libertà religiosa, che è uno degli elementi fondamentali della libertà personale. Cioè, io credo che cadranno, devo dire, non mi sarei mai aspettato di vedere il Papa a Cuba. E forse, chissà, farò in tempo a vedere un Papa a Pechino, non lo escludo. Vedremo, magari potremo commentarlo insieme. Grazie comunque a Francesco De Filippo per essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del suo libro Il Dragone Rampante, 182 voci del potere cinese, tutto quello che volete sapere appunto sui rapporti tra la Cina e il mondo occidentale, tra la Cina e l'Italia, in queste 182 voci, un vocabolario per capire appunto dove sta arrivando questo nuovo potere cinese. Il libro è edito da Castelvecchi, a 128 pagine, costa 13,50 euro. Grazie anche a Paolo Colleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. grazie e buona serata.